20 Allora, Eleonora, adesso tocca a te. Cioè, abbiamo chiamato, lo sai, il personaggio, però sì, siamo tornati su di te. Allora, ci dispiace, non è che l'abbiamo fatto per qualche motivo, ti consideriamo una grande professionista, però sai, ci piace cambiare. Poi era un personaggio, non potevamo dirgli no. Tra l'altro, amicizie molto in alto, non ti dico neanche fino a dove arrivano. Mi Quindi lo spazio è tuo, vai, già sai cosa devi dire. Ok, parto. Va ora in onda. Chi è? No, oddio, ecco, no, eccolo qua. L'ha litigata. Ma non ho capito. Ma Corrado, mo sono fatti cioè, nostri. No, cioè, Ricca, voglio dire, Ale, per piacere, ma avete chiamato? Ma perché chiamate anche quest'altra persona? No. Ma non ho capito, ma io adesso devo competere con una persona che non si mette neanche una persona, poi. Che non si mette neanche le mutande. Calmi. Va in giro nudo, solo con un cappellino. Calmi. Silenzio. Allora, facciamo così. No, si calmi perché le offese le capiamo benissimo. Okay, metà uno, per uno, metà l'altro. Chi allora, comincia per primo? Eleonora, va e bene. Poi l'altra parte lo fa. Lei è d'accordo? Il nostro personaggio. Ma capisci almeno quando parliamo? È chiaro. Eleonora, per favore, non rischi, quello è molto nervoso come tipo. Sì. No, ma non si capisce quando parla. Si capisce benissimo, però quello è nervoso, uno sembra uno simpatico nervoso e dolce, in verità è uno stronzo di prima categoria. Allora, una alla volta, incominci tu. E poi parte lui, ma va bene? Quando viene poi in una settimana, poi ritorna a casa sua, è in vacanza qua in Italia. Sì, Eleonora, vacanza. Pure tu però, dai, dai su. Vai, abbiamo trovato una soluzione, d'accordo, basta. Ok, vai, va parti. Bene. Va ora in onda, mi sta stretto lo stivale. Sì, tocca, sì, tocca a lei. Ma non capo, vedi che capo, non da capisce. Da capo, da capo. 1, 2, 3. Va ora in onda, mi sta stretto lo stivale. Va bene, vai così. Ah, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Ma buon tutto. Radio 2010, mi sta stretto lo stivale. Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. I vostri carissimi. Come va Alessio? Ma sì, sveglio. Felice. Devo dire che Alessio ha una faccia da addormentato, no, non indifferente. Ma affatto. Ho un collega bello pimpante. Sì, no, ma saremo dei razzi anche questo. Sì. Come no, quella faccia che c'hai. Salutiamo subito il regista. Basta prendere il ritmo. Prendilo subito. Salutiamo in regia il nostro mitico DJ. Ciao DJ, come Ciao, stai? Ciao DJ. Buonasera. È informissima, sì, è sempre più in forma. Lui ormai la stanchezza proprio non lo accusa. Lui l'accusa. Ma sai, festini su festini, cioè ormai lui non conosce né quando giorno né vivi notte. Con miliardi di decibel dietro le orecchie, no, questa è una frase di Ozzy Osbourne. Ah sì. Il figlio gli chiedeva quel chiattone schifoso del figlio. Ah sì, me lo ricordo. Di quello con la cresta. Sì, sì. Gli chiedeva, bella famiglia. Papà, ma perché sei così rincoglionito? E lui diceva, provaci a vivere 30 anni con milioni di decibel dietro le orecchie e mangiando pipistrelli sul palco. Sangue di pipistrelli. Non credo che faccia bene. Ah, che non credo. Partiamo subito. Una notizia succulenta che viene da Pistoia. Sì. Allora, Pistoia, leggo la dichiarazione di Simone Scattizzi, un monsignore. Sì. Il monsignore dice: niente comunione ai gay conclamati. Perché hai ragione, DJ. Perché l'omosessualità è un disordine e i precetti della Chiesa non devono essere contraddetti. Insomma, la Chiesa italiana dà sempre il buon esempio. Tra l'altro lui dice: il principio generale è che la conclamata e ostentata omosessualità è un peccato e esclude la comunione. Conclamata. Però. Quindi aspetta, voglio, dopo di analizzare queste cose, voglio dirti anche altre sue dichiarazioni molto interessanti. L'omosessualità, in quanto tale, lui afferma che è un disordine. E su questo non ci sta discussione. Sì, no, è chiaramente un disordine. Lui come... è un cuore buono. Sì, ma sai quando la sera precedente, tipo ieri sera magari, sì, hai mangiato un pochettino pesante, tipo, non lo so, hai mangiato scamorza. asparagi. Mamma mia, proprio. Che cazzo mangi? Funghi sott'olio. Ma che mangi? Poi hai concluso tutto con una banana. Il giorno dopo sei un po' in disordine. No, ma capito, un disordine è questo, un disordine. Oppure sì, la mia stanza è in disordine. Non è che è una persona omosessuale, monsignore. No, per il monsignore la tua stanza è omosessuale. La mia stanza è omosessuale. E come tale il mio non stomaco può, anche omosessuale. Il tuo stomaco è omosessuale. Insomma, e come tale non possono avere la comunione. Cioè. E tra l'altro lui dice che con gli omosessuali è necessario usare delicatezza e misericordia. Sì. E alla fine il giudice ultimo è Dio. Però non la comunione non gliela facciamo. Tra l'altro lui dice però... che c'è scritto che il problema è che è la conclamata e ostentata omosessualità. Sì. Il problema. Cioè nel senso che se tu vai vestito come Platinette in chiesa, sì, là col boa rosa, sculettando, sì, e anche col rossetto, la comunione non te la possono dare. È chiaro. Però se invece vai là bello, mite, delicato, soprattutto molto fine, te la fanno comunque. Sì, anche perché si sa, cioè gli omosessuali sono tutti come Platinette, sì, tutti quanti così tutti camminano, tutti vestiti, cioè, come delle drag tutti, queen, tutti come quindi, anche i Pride, quindi stanno, li riconosci subito. Sì. Monsignore, ma sa, siamo tutti uguali. A quanti li sta facendo la comunione, cioè, che sono gay e non glielo infatti, dicono. Infatti, mica venire a lei, forse nel confessionale, ma facciamo la fine. Ma dai, è pure giusto così, la ma perché devono venire lì a dirvi siamo gay, non siamo gay, ma che volete? Però se sono miti lui gliela fa, quindi esatto, quindi per tutti, non per tutti, tutti gli omosessuali non Pistoia, vestiti come Platinette, esatto, voi esatto, di Pistoia. Anche perché vi vestite sempre così. So che il monsignore pensa che si vestano tutti come Platinette. Anche perché il monsignore non credo che se ne accorga. Non deve essere una persona molto sveglia. Non è la moda, non è comunque la moda. Monsignore, noi diciamo sempre: se volete venire in radio a parlare, siamo qui. Noi non siamo vestiti come Platinette. Soprattutto quindi... io non ho fatto la comunione, quindi. Io l'ho fatta. Sono anche a scuola dei preti, quindi. Sono della parrocchia, diciamo così, sono della parrocchia. Seconda notizia di tutt'altro genere, ed è soprattutto di piena attualità, Alessio, pienissima. E parliamo del futuro dei giovani, parliamo sì, della scuola. Mamma mia, la scuola, che bei tempi la scuola. Quanto bei tempi vorrei ritornare a scuola. Che l'università è un'altra cosa, eh? Quando sei a scuola dici, ah, non vedo l'ora di finirla. Quando cominci l'università ti ricordi la scuola. Il periodo più bello della mia vita. Questo è un luogo comune, clamoroso. E comunque la notizia riguarda la riforma Gelmini. Sì. Sveglia, su, parliamo della Gelmini, tirati su. Sì. Tutti in riga, come dice la Gelmini. Allora, la Gelmini ha fatto delle varie riforme riguardo ai licei, eliminando, tagliando e cucendo le nostre bellissime lezioni di orari, gli orari delle lezioni. Allora, partiamo subito con un rapido elenco, anche perché sarebbe troppo pesante. Noi sì, non siamo una trasmissione culturale, anche se ci travestiamo dietro questa parola. Allora, partiamo subito dal liceo classico. Allora, liceo classico è innanzitutto meno italiano e storia nei prossimi licei classici. E i bambini apprezzano meno italiano, mi nel classico meno italiano, sì, mi sembra ovvio. Assolutamente. Ma anche più lingua straniera, matematica e fisica. No, la matematica mi sembra... Nel classico... matematica e fisica mi sembra... Leviamo l'italiano e aggiungiamo matematica. Sì. E abbiamo tra l'altro 3 sole ore di storia e geografia. È giusto, è giusto, questo è perfetto. Caratteristica fa storia e geografia... Per favore DJ si calmi. Caratteristica di storia e geografia, sai cos'è? Che è tornata ad essere sì, una materia unica. È giustissimo. Come l'elementare. Perfetta questa. Ci sarà, tra l'altro, insomma, la mia maestra elementare andrà a insegnare al liceo perché sono gli unici che sanno fare sia storia che geografia insieme. Sì. Che collegamento c'è? Poi non lasciamo perdere. Perfetto. Passiamo perfetto subito al mitico liceo scientifico nel quale io mi sono diplomato. Tu invece hai fatto? Scientifico. Ah, complimenti. Sì, sì. Complimenti, mi dai la mano. Grazie, complimenti per la scelta. Liceo scientifico, meno ore di latino e storia. Chi la vuole imparare questa no, storia? Effettivamente poi allo scientifico, insomma. Più fisica e più matematica e più scienze mi sembra ovvio. Però meno ore di lingua straniera. Che è importante non conoscere l'inglese. Sì, ultimamente. Papà me lo dice sempre. DJ, basta. Papà me lo diceva sempre, d'altro. È importante non conoscere l'inglese. Una lingua straniera. È molto importante, mi raccomando. Altrimenti come ci imponiamo sulle altre culture con la nostra meravigliosa lingua? Abbiamo appena 3 ore di inglese. Cioè, abbiamo più educazione fisica che inglese a momenti. È giusto, ma perché l'educazione fisica è un linguaggio universale. Ci facciamo capire a gesti, con la palla a volo. Con la palla medica, quella palla che pesava 200 kg. Ma dove andai a scuola con la palla medica? Ho avuto dei professionisti. Con la palla medica. Con la palla medica, una di quelle cose che per gioco, se per sbaglio la lanciavi in faccia ad una persona, che la gioco all'ospedale. È? Quella palla era pericolosissima, mamma, in mano mamma dei bambini. E il quadro svedese, che c'era sempre il solito cretino che credeva di essere Spider-Man. La leggenda del quadro svedese, dove tutti rimanevano incastrati dietro al quadro svedese. svedese perché era attaccato al muro. Però ti dico, quando poi le ragazze facevano gli esercizi, si stava tutti quanti lì a guardare con la testa alta. In preda agli ormoni, in preda agli ormoni. L'educazione fisica era quel momento. Facevano le tutine, si vedevano le forme. Il bambino impazzito, gli ormoni a palla, testosterone. Guarda, veramente. La scuola e il liceo è stato il più bel periodo della ancora, abbiamo capito. Sì, assolutamente. Abbiamo capito. Hai lasciato la vita di merda adesso. Cioè, come, che università stai frequentando? Ma la caratteristica da Giammini è bellissimo. Allora, liceo artistico. Tu sai che il liceo artistico è sempre passato per il liceo dove non si faceva un cazzo. La pacchia. Lo sceglievano quelli che non studiavano. Fa liceo artistico, anche non ce ne fa niente, si diceva. E invece nel liceo artistico sarà il liceo dove si studierà di più. Siete fregati, è finita. È finita la pacchia, signori. Il liceo artistico non si può scegliere più. Si studia. Si studia anche al liceo artistico. Dai, andiamo avanti, raccontami tu qualche notizia. Sì, sto parlando da troppo tempo. Da Treviso. Vai, no, c'è una novità, diciamo, proprio per San Valentino. Per San Valentino, per favore, regia. L'argomento è un po' forte. Voglio la base giusta, regia. L'argomento è un po' forte. Facciamo partire la base. Ecco. Base perfetta. Oh yeah. Di che cosa stiamo parlando, Riccardo? Di sesso. Di che cosa stiamo parlando, Riccardo? Di sesso. Di che cosa stiamo... Parliamo di amore e di sesso. Amore e sesso. L'articolo è preso da uno dei notiziari italiani più importanti. Quale? Il Mattino. Ah, come no, come non ricordarlo. Una pagina che una grande testata giornalistica scritta apposta per noi. Infatti ringraziamo il Mattino per queste notizie scrause. C'è la crisi, a Treviso sexy shop rottama vibratori per San Valentino. Ah, e che bella idea, rottamiamo i vibratori. Treviso, 10 febbraio, dopo gli incentivi per l'auto, quelli per i giochi erotici. L'idea è di un sexy shop della provincia di Treviso che per San Valentino, festa degli innamorati. L'amore. E quando dico innamorati, dico... sesso. Innamorati. Garantisce uno sconto regalo ai clienti che rottamano vecchi vibratori e altri gadget. Ma che imprenditore geniale. È una cosa incredibile. Questo sexy shop, che tra l'altro cioè c'entra poco con San Valentino. Diciamo che parliamo di sesso, di aggeggini vari, roba per divertirsi. E per San Valentino, visto che loro sono romantici, rottamiamo i vostri vibratori usati. La cosa veramente divertente è che anche da un punto di vista ambientale è una cosa che porta vantaggio. Certo. Nel senso che la gente ricicla. Quando, allora, diciamoci la verità, i vibratori ce li hanno un po' di persone a casa. Io non ce l'ho. Tu ce l'hai? Attenzione. No, magari noi no. Però qualcun altro ce l'avrà, sì. Ha questo aggeggino così sul comodino. Cioè, io ho amiche che posseggono vibratori. Ah sì? Non posso farti nome. No. Vabbè, mi sembra giusto la privacy. Però maliziose. Usciamo fuori da questo, da questa visione ragazzacce del sesso. Anche le ragazze hanno bisogno dei loro momenti privati. Diciamo che non solo gli uomini si sono dediti all'autoerotismo. Esatto, anche le donne quindi utilizzano questa oggettistica. Questo accessorio. E questo elettrodomestico. A Treviso ci sarà anche la presenza di Barbara Gandalf. Chi è Barbara Gandalf? Una porn star. Chi meglio di lei per pubblicizzare? Che va a Treviso e dice: Rottamiamo una volta che non ci sono i nuovi che funzionano meglio, compatibili. Non buttateli. E tra l'altro, tu li rottami e tra tipo 10 anni i vostri figli avranno il trenino fatto di vecchi vibratori. Penso che valga solo per gli oggetti erotici, però non c'è male. Come? Cioè, nel senso, il vibratore diventa un altro vibratore? Sì. Che cosa schifosa mi stai dicendo? Vabbè, ma penso che il processo di... No? Non sono sicuro, a me farebbe schifo sapere che quello è un oggetto ecocompatibile. La cosa divertente, è che tu non lo saprai mai. Ma io per fortuna non comprerò. Però Riccardo Cremona ha appena ammesso che potrebbe comprare un vibratore esclusivamente per uso personale. Non ho detto niente del genere. Andiamo avanti. Sempre rimanendo sullo stesso tema. Anche perché la musica ci sta portando ad un, diciamo, un livello superiore anche. Fatti un po' più là, va. Di amicizia lavorativa. Sei troppo vicino. Ecco. Dimmi. Altra notizia comunque. Sì. Praticamente Milano. Notizia dell'11 febbraio oggi. Oggi. Che è successo? Viene operato sempre il Mattino. Grazie Mattino per questo. Senza di voi non potremmo fare la trasmissione. Viene operato al testicolo sano. E per il danno viene risarcita la moglie. Ah, cioè, la giustizia funziona. Questo povero uomo ha avuto questo problema. problema grave, tra l'altro, e gli hanno operato il testicolo sbagliato. Problema scrotale, hanno sbagliato a scegliere. Esatto. Hanno scelto Ernesto a posto di Evaristo. Esatto. E oltre a renderlo sterile, tra l'altro, poveretto, questo intervento gli ha causato ovviamente un calo del desiderio notevole. Poveretto, una cosa per brutta. Per cui c'è stata la riconoscenza, diciamo, del danno, sì, sia morale che biologico. E quanto vale la sterilità e l'essere monopalla? Quanto vale? Leggo che hanno chiesto un risarcimento di 475.000 euro. Sì, sì. Di cui 375 all'uomo e 100.000 alla moglie. Poveretta, giustamente, niente più fichi fichi insieme, quindi poveretta, mi sembra, mi sembra giusto. Ma mi che sembra... stiamo scherzando? No, mi sembra esatto, bene, dai, a pagare. Dai. Allora, passiamo alla notizia televisiva. Allora, la televisione ultimamente mi fa proprio schifo. Ecco. Ma proprio per essere meglio la radio. Molto meglio la radio, molto meglio. Allora, la notizia però, di oggi, però la televisione noi la guardiamo. No, io la guardo. Io ogni tanto pure. Io la guardo, va vista, secondo me va vista. Cioè, poi soprattutto adesso che abbiamo intrapreso questa avventura della radio, la televisione va guardata. Va guardata per trovare informazioni, anche perché la televisione è piena. Oh, io ho un'amica, sì, che si chiama Antonella, sì, che guarda tanto di quella televisione che ormai è fuori di testa. Veramente? Sì, sì, sì. La televisione nuoce che alimenta la salute se presa in dosi massicce. Non so se ricordate Antonella, quella che cercava l'uomo. Sì, così, sì, così. Ah, è lei. Non quindi, l'ha ancora trovata. Certo, tu adesso dici che è completamente fuori di testa. Vabbè, continuerà a non trovarla. Va bene, parliamo di notizia televisiva. Parliamo del programma La Melevisione. Mamma mia, La Melevisione, che schifo. A me piace, che dai, schifo, per i bambini. Ma senti, dai. Che bella. Questa è la sigla di sottofondo. Ma poi c'erano dei personaggi ignobili. Sì, leggo i nomi: Lupo Lucio e Milo Cotogno. Dai, dai, poi dici i bambini. Allora, che è successo? Ma facciamoli giocare a Doom 3, no, Call of Duty. Sì, dei videogiochi aggressivi. Prima si lamenta, prima si lamentano che i bambini sono troppo violenti, guardano troppo televisione violenta. E quando c'è un programma per i bambini che ma si Lupo Lucio, dai, che si svolge nel fantabosco, no, della Melevisione, lo tagliamo. D'accordo, perché Rai 3 ha deciso di tagliare questa televisione perché si spende troppi soldi. Si spende troppi soldi per la Melevisione. Tra l'altro non è questo programma, lì ci sono ospitoni. Troppi soldi. Vabbè, per dai, la sono due alberi di carta veste. Infatti, insomma, è qualche trucco, qualche pelo dai, finto. Dai, qualche liana. Qualcuno pagato per trovare questi nomi improponibili come Lupo Lucio. E comunque che è successo? Hanno tagliato la Melevisione. Cioè noi spendiamo miliardi per gli ospiti di Sanremo e tagliamo per i bambini. Poveri bambini senza più Lupo Lucio. Allora, ci sono anche altri tagli importanti, tipo quello del Gran Concerto. O sì, anche il GT Ragazzi. Ah, anche il GT Ragazzi. Io adesso dico, la Melevisione per me potete chiuderla perché fa schifo. Vabbè, me, però per i bambini, forse però sì, per i bambini. Tu non sei un bimbo, non Gran puoi Concerto invece era uno spettacolo interessante, cioè era una novità. Ma io poi dico, su Rai 3, fra tanti programmi che non... Io sì, guarda, non chiudete proprio questi. Non dai, dico che Rai 3 non ha questo grande palinsesto. Personalmente la Melevisione potete anche prenderla, dare fuoco a quello studio. No, io mi dissocio perché tu non sei bimbo, non puoi capire che effetto fa guardare Lupo Lucio. Salvate Tonio Cartonio. Salvate Tonio Cartonio, non dico se si chiama così o no. E niente, la Melevisione bruciare salvate il Fantabosco. Allora, praticamente si è aperto un gruppo di Facebook che tenta di salvare il Fantabosco. Ora io ho una proposta per questo gruppo di Facebook. Sì. Perché? Perché la Melevisione, il Fantabosco, in questo momento è ostaggio di qualcosa di potente. Basta questa storia. Sì, basta. Ecco, ostaggio dello Stato. Ostaggio dello Stato. Ostaggio dello Stato. Voi di Fantabosco, ribellate. Arriva. Eccolo. La parte che preferisco. Ostaggio dello Stato. Voi che siete ostaggi dello Stato, mi raccomando, scaricate questa bellissima applicazione, combattete per salvare Lupo Lucio. Salviamo Lupo Lucio. E anche Tonio Cartonio. Anche non disprezzando Tonio Cartonio, un bell'uomo, capelli sì, rossi, un bell'uomo. Passiamo subito alla notizia, diciamo, qua, reale. Cioè, penso, scendo di casa e sento questa notizia. Sì, perché ecco, parliamo della notizia di Napoli. Sempre dal mattino, grazie mattino, sempre parliamo di Napoli. Questa è tosta, eh. Questa è cronaca, facciamo anche cronaca noi. Questa è cronaca. Allora, a Napoli 10 febbraio, ieri, gli agenti del reparto di prevenzione crimine Campania, quindi dei signori agenti, cioè serio, che sono addetti al controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà a Napoli un intero nucleo familiare composto da madre, padre e due figli. Che bella famigliola. Mi sembra la famigliola di cui abbiamo parlato alla prima puntata. Non è la stessa, però a Napoli sono piene di queste famiglie, tipo sì, Mulino Bianco. Sì. Allora, quello che era un normale controllo di routine, salve, buonasera, patente, libretto, cose del genere, si è trasformato in un'aggressione ai poliziotti. Praticamente loro hanno fermato questa autovettura, a bordo del quale c'erano i due fratelli, due giovani, che subito sono si sono mostrando dando segni di insofferenza, questa cosa è che chiaro, la polizia non mi può controllare. Io sono napoletano, anche perché l'auto era priva di copertura assicurativa. Ma chi paga a Napoli l'assicurazione? Agenti, pure voi, chi la paga a Napoli la copertura assicurativa? E comunque succede, una volta che hanno accettato la violazione, sono entrati nell'auto di servizio i due agenti per redigere il verbale perché pioveva. Sì. Pochi attimi più tardi, nell'attimo in cui sono un attimo distratti, sono stati raggiunti dai genitori di due. Ma in corsa, che sono scesi di strada, si sono affacciati al balcone. Sì. Oh, là c'è il nostro figlio, andiamo! Sono scesi di strada, l'intero una nucleo rissa. Hanno cominciato, hanno schiaffi, pugni, pacchi. Una rissa. Una rissa, un film di Bud Spencer. E Terence Hill. E Terence Hill, non dimentichiamo, una grande coppia. È successo un macello, hanno cominciato a urlare, sono fuggiti, è successo di tutto, solo a Napoli queste cose. A me se mi fermano, patente, libretto, tutto a posto. Non credo che mia mamma si affaccia giù al piano, scende col mattarello a picchiare due agenti. No, ma. E poi l'assicurazione va pagata, dice, non è verità, ragazzi. Cioè, l'assicurazione va pagata. Paghiamo queste cose. Cioè, poi avete torto, picchiate pure gli agenti, poveretti. Quello già a Napoli è complicato. Dai. Adesso raccontami tu un'altra notizia. Allora, questa è una notizia seria. Seria? Molto seria. Dimmi l'argomento. Sono due o tre da trattare. Te le dico così, guarda. Dimmi. Amore. Ok. Baci Perugina. Ok. Federico Moccia. Oddio. Prima di tutto facciamo partire. ci sta bene. Con l'amore. Ci sta bene con l'amore. Federico Moccia sta rovinando il nostro paese. Io odio Federico Moccia. No, ma ha rovinato generazioni. Lo sta rovinando. Alcune sono già rovinate. Ieri l'ho scritto anche sul mio blog. Sì, ho letto. Importantissima questa questione. Che è successo? Noi sappiamo che non è una cosa così importante come la fame nel mondo. Certo, ovviamente. O come la questione degli omosessuali di cui abbiamo parlato prima. Certo, però pure questa. Però è tossa questa da buttare giù. Raccontaci allora, cos'è il fatto. Raccontaci il fatto. I baci Perugino. Tutti buonissimi i baci Perugino. A me piacciono moltissimo. Tutti tra l'altro li abbiamo ricevuti spesso in dono. Tu da quale ragazza che sei hai ricevuti tanti, vero? Tantissimi. E sempre con quel pizzico di timore di essere scoperti, li abbiamo scartati per così, leggere di nascosto. Sì, no? Timidi. Una volta me ne hanno regalato uno all'inizio di una serata. L'ho lasciato in macchina e l'ho scartato solo una volta arrivato a casa. Ecco, era squagliato completamente. Ma c'erano frasi meravigliose. Sì, immagino quelle che frasi. Odiavo di più erano quelle firmate anonimo, no? Sì. Che dici da anonimo, cioè chi era scritto chiunque. Anche proprio questo un ferro trambiere. Però alle volte capitava Pascal, cioè Pascal. Artisti, letterati. Pascal. Cioè, Keats. Trovavi gente, degli aforismi veri. Ma gente importante, gente che sa, soprattutto scrive. La cultura, capito, era data una piccola forma di cultura. Sì, incredibile. Ma poi per tutti. Un petit cadeau dal cultura. Tamarro nella Smart. Che facciamo, oh, Dio, bacio Perugina, esatto. E lei però YouTube, bacio Però leggeva Pascal. Capito. Non capiva niente di Pascal. Però chi è Pascal? Hai visto Pascal? Non lo capiva, però adesso la nuova frontiera, che è successo? Appunto riguarda Federico Moccia, autore di capolavori ormai come ricordiamo riconosciuti. Allora, 3 metri sopra il cielo, Scusami se ti chiamo amore, e adesso è uscito anche Scusami se ti voglio sposare, e anche non dimentichiamo un film bellissimo, Amore 14, l'amore ai tempi di 14 insomma anni. Federico, con tutte queste scusami noi aspettiamo uno scusaci e basta. Scusaci, cioè, scusami. Guarda, scusami, cioè Federico, per colpa tua i bambini sono impazziti. Ho visto Lucchetti attaccati ovunque. Fai cadere i ponti con fai cadere i ponti. Lucchetti a ponte, hanno chiuso Ponte Emilio per colpa tua. Scrivi un libro che si chiamerà Scusami. Scusatemi. Al così, cinema. Così scusate dai. Se ho rovinato il cinema. Esatto. Allora, Federico Moccia che cosa fa? Federico Moccia è il giudice di un concorso. Di quale concorso? Proprio dalla Perugina. Ah, dalla Perugina, sì. Azienda ritenuta seria fino probabilmente sì, a 2-3 giorni fa. Una delle più serie riguardo al cioccolato. Una delle più serie riguardo al cioccolato. Per quanto si possa essere seri riguardo al cioccolato. Però vabbè. Però a quanto pare c'è questo concorso a cui possono partecipare tutti. Tutti, questo tutti, già è una tutti. Cosa che non condivido abbastanza. Che qual è il concorso? Dillo. Puoi scrivere la tua frase che poi sarà pubblicata sui piccoli fogliettini del bacio. Chi è il giudice? È proprio Federico Moccia. Ah, eccolo qua. Chiunque, il ferrotramviere, il tamarro e anche la commessa può scrivere il suo messaggio d'amore al suo coccolino amoroso. E soprattutto non è che ci sarà, dici, un insegnante di letteratura a bloccarli, ma ci sarà Federico Moccia. E Federico Moccia, un uomo pieno di cultura amorosa, ricordiamo i suoi bellissimi film, sceglierà le frasi migliori. Ce ne sono di alcune bellissime, leggiamo, si possono già leggere sul sito. Una è fatta da Milo e Simo. Milo e Simo? Sarà una coppia omosessuale? Non lo so, ma non ci interessa. L'amore non ha limiti. Ha ragione. Potrebbero anche essere un cane e un gatto. Milo e Silo, cane e gatto. Tra la mia fragile dolcezza ti dono questo bacio che si scioglierà tra le tue dolci labbra e ci incanteremo. Ora, no, vabbè, non è tanto questo il punto. Il punto è che terribile. Tra la mia fragile dolcezza e che cosa poi dopo? Tra la mia fragile dolcezza già hai perso la tua immagine di uomo. Ce ne sono altre. Continuiamo a leggere che sono bellissime. Aspetta. Federico Moccia, ma come si fa a scegliere uno che diceva io e te, questa, 3 metri sopra il cielo? Mi basterebbero soltanto 5 minuti al giorno con te. Uno per parlarti, uno per guardarti, uno per accarezzarti, uno per baciarti e uno per farti andare indietro l'orologio. Ah, questa è ancora peggio di prima, ma sei una palla pazzesca. Ma come si può? Cioè, ma poi tra l'altro li facciamo scegliere a Federico Moccia, uno che le frasi più belle era ho voglia di te, oppure scusa ma ti chiamo amore, oppure io e te, questa, 3 metri sopra il cielo. Oh, questa è simbolista, eh. Fammi sentire, cioè, questa simbolismo. Da uno che si firma Luca Morrison. Ah, questo già c'ha un nome d'arte. Tu mi baci, galoppo in paradiso, precipito in un mare di passione per perdermi poi nei tuoi occhi. Ma questo non c'entra nel bacio perugia, tutto sto casino, non c'entra. E questa poi, sempre Luca Morrison, che diciamo che è un letterato esperto di baci perugina. Angeli innamorati, punto. Noi perduti tra i dolci giardini del Eden. Con la senza posto, si scrive del Eden. Ma si scrive con l'apostrofo. Allora, Luca, devi aggiungerci un'altra L e metterci un apostrofo. E devi anche smetterla, tra l'altro. Dai, magari poi ne leggeremo qualcun altro nelle prossime questa puntate. Questa cosa è terribile. Comunque veramente un colpo al cuore. Perché? Cioè, perché? Perché la baci per voi, signor bacio perugina, bacio cognome perugina cioè bacio nome perugina cognome. Perché avete scelto Federico Moccia? C'è uno che d'amore veramente non ne capisce niente. Soprattutto cioè i film di Federico Moccia non parlano, scrivete dell'amore. Scrivete libri schifosi, dai. No, i libri sono inguardabili, basta, sono inapribili. Film inguardabili, libri illeggibili. Lui è inguardabile, quel cappellino che non si aveva da anni. Fai pure un CD così. Facciamo recitare pure Riccardo Scamarcio e Raul Bova. Abbiamo finito, cioè uccidimi, uccidimi, finiamola lì. Le notizie sono finite, adesso partirà subito la nostra canzone. Chi facciamo sentire oggi, Alessio? Allora, oggi sentiamo i Two Left Shoes. Che complimenti per il tuo inglese. Sì, vabbè, si sa che non sono... Two Left Shoes Hand Band. All left. Vabbè, dillo bene però. E loro sono una formazione molto particolare. Due scarpe sinistre. Due scarpe sinistre, sono molto simpatici. Li sentiamo, dai. Ah, li sentiamo, poi ne parliamo dopo. Vai con la musica. We'll be right back. simpatici, no? Mi sono piaciuti, devo essere sincero. Prima canzone, il mio voto è positivo. Leggo dal loro MySpace. Il loro genere è un rock indie. I loro testi parlano delle gioventù, vite di tutti i giorni tra pensieri, sentimenti, storie e dipendenze tipiche di ogni provincia meccanica italiana di questi anni zero. E le loro canzoni si muovono tra ritmica e romanticismo, ispirati alle lezioni dell'indie embrionale, del Velvet Underground e degli Smiths. Il fascino dei Beatles e di Ziggy Stardust. E, insomma, è la nuova ondata indie e new wave espressa nel 2000 da gruppi come Interpol, Franz Ferdinand e Arctic Monkeys. Ma a me sono piaciuti comunque. Insomma, sì, molto giovani. Sì, si è sentito il sound indie che muova moltissimo questo genere. E loro sono bravi. Sono sì, sono bravi, mi sono piaciuti. Complimenti. Poi magari li invitiamo, li ascoltiamo. Sì. E ora. È un momento che tu non apprezzi, ma io continuerò a fare subordinando al mio. Bla bla bla. Ho già in onda. E voglio, come al solito, il tuo permesso, anche se finto, sì, di parlare col nostro mitico Ascanio Mummolo. Salve, dammi io permesso. Sto zitto come al solito. Stai zitto. Fai quello che vuoi. Regia, attacchiamo Ascanio Mummolo. Pronto, Ascanio? Salve! Ah, come sta, Ascanio? Bene. Bella settimana. Ha passato una bella settimana? Sì. Ah, mi fa piacere. Lavoro, tutto bene? Sì, un sacco di soldi a pagare. Non so più neanche dove metterli. Sotto al materasso. No, che ne sai? Ce l'ha detto una volta. Salve Ascanio, salve. Anche lui. Ah, sì, anche lui. Non c'è nessuno. Io non ho soldi sotto al materasso. Sì, a partire da questa cosa. Immagini che materasso enorme e comodo, pieno di soldi. Ma quelli mummoli. Mummoli rendono. Sì, a me se il materasso è grosso, che c'entra con i soldi? Ah, va bene. Cioè, forse costa un po' di più, però. Questo, se ti riferisci a quello, posso darti il tu. A me sì, come no. Ok. All'altro? Se vuoi tu mi puoi dare il tu. Che onore. Ascanio, come stai? Questa? Tu. Però non ce la chiamo, non è no, che... ma... cioè... ma che fa? Lancia la pietra. No, deve chiamarlo col tu, deve dire tu. No, ma che cosa? L'idea del lei. Ma lei ha detto... Vabbè, stiamo prendendo troppa confidenza. Vabbè, torniamo a punto zero, le do del lei. Ascanio, okay, Buonasera, Ascanio. Saluti anche il mio collega. Buonasera. Buonasera. Che bel siparietto, che falsi che siete. Allora, al lavoro è tutto a posto, a casa con sua moglie. Bene. Che ricordiamo si chiama? Ascania. Ecco, ovviamente, non potevo non farglielo dire. Allora, noi oggi vogliamo, come al solito, lo sa. Abbiamo dovuto rifare l'ala ovest, però. L'ala ovest di... Lei vive un appartamento? La reggia. Come la reggia? È una reggia, eh? Era una reggia di qualche conte dell'Ottocento. Che le ha preso, trasformato in no, un... No, ho rifatto rifare proprio un castello. Cioè, che la reggia... Sono fatto importare le pietre dalla Turchia. Dalla Turchia. Dove ci viveva qualcuno. Le famose pietre turche. No, nel senso, sono dei massi giganteschi. Le ho fatti portare... C'era uno che viveva dentro a quella specie di castello. Turco. Signor Mummolo, che facciamo? Ma Istanbul, signor Mummolo. Anche, sì. Istanbul, la capitale della Turchia. Perché io amo molto Istanbul. Non lo so, io ho detto prendete pezzi da monumenti storici così a mia casa. In giro per il mondo. Probabilmente lei ha battuto la torre di Galata a Istanbul per creare un Mummolo. Sì, come no, quello io ho fatto la torre di vedette, diciamo così. Cioè, lei ha staccato una delle cose più belle al mondo. Solo la parte finale, quella di sopra. Ah, proprio la base. Adesso è senza la parte di sopra. Sì. L'abbiamo circonciso uno dei più importanti. Poi mi sono fatto prendere il, non so se sapete, in Austria c'è un tetto d'oro con delle tegole d'oro. No, sì, questa no, non la conosce. Ci sta in Austria, sta. E io l'ho fatto prendere e l'ho messo sopra la mia finestra, così quando riflette il sole, diventa questa tutto dorato. Lei Ascania che cosa ne pensa? Ascania gli è piaciuto, come vivi in una regia non ti piace, stai scherzando. Abbiamo Ascania! Ti piace? Sì, ti piace. Abbiamo scoperchiato l'Europa per abbattere una reggia, che già è una reggia, per costruire un castello. Questa cosa è terribile. No, vabbè, ho preso anche un po' di capitelli qui per fare la zona un po' antica romana. Giustamente, cioè. abbiamo eliminato l'arte dai. No, perché io amo l'originale, cioè per me è la cosa falsa. Lei ama il pacchiano. Voi come chiamate il pezzotto? Non esiste, capito? Cioè, deve essere. È un po' kitsch forse, sì, il suo castello, con questo macchie di tutto. Kitsch. È bello, però beh, cioè, tu lo vedi e dici quanti secoli sta qui, non è vero, sta da un anno e mezzo, però sembra chissà da quanti anni. È solo apparenza, diciamo così. No, non è allora i pezzi realmente sono vecchi, cioè stiamo parlando anche vabbè, lei ha fatto un decoupage. 100 anni. Appunto. Ma non è che sono il primo che lo fa, l'hanno fatto tutti. È una pratica utilizzatissima. Allora, scusate, allora, Cioè, allora, avete visto il Colosseo? Certo, sì. Non era così. Avrei avuto un tetto. Non c'è più quel tetto. No, ma il Colosseo era senza tetto. Penso che fosse senza tetto. Era un'arena, non ha il tetto. E che hanno fatto? L'hanno tagliata a metà. Cioè, no, chi sono queste costruzioni? Sono dei cretini. Tempo, sentite, il tempo, signor Mummolo. Un giorno speriamo il nostro santissimo Dio. Anche i suoi mummoli saranno distrutti. Speriamo. Ma che cazzo dici? Pure se me li distruggono sono assicurati. Ecco, adesso tu sono assicurati per il triplo del tutto, di tutti i soldi dell'Italia. Che cosa vai a dire? Che rendi conto? Pure è assicuratissimo. Facciamo qualche domanda. Allora, la domanda di oggi è inerente alla notizia di Pistoia. Adesso, lei l'ha sentita la notizia di Pistoia? Ma che deve aver sentito? L'ha sentita? Dipende quale, ce ne sono tante notizie. No, la notizia di Pistoia era una. Lei l'ha sentita? Ah, il fatto che hanno chiuso una tabaccheria. No. Era anche di un mio amico. No, ma, ma quale notizia ha sentito e dove soprattutto? No, si parla di omosessuali. Si parla di omosessuali. Ah, no, omosessuali. No. Gay. I froci. No. Omosessuali, froci in modo... Sentite, stiamo parlando di due persone dello stesso sesso che fanno cose sporche assieme, eh? Cose sporche. Amore. I froci. Amore. I froci. No, ma non si dice froci. Vabbè, comunque, gli amici del collega vostro. Ecco. O amici omosessuali. Ma non chissà come mai. Ma non, ma non chiami, per questo. No, però, signor Mummolo, non scappiamo. Ma io li rispetto, attenzione. No, sono comodi. Se li rispetta, poi mi spiega questa storia della comodità. Ma perché se li rispetta, sono di compagnia. Ma non sono animali domestici. Se li rispetta, non li chiama froci. Cioè, tipo, avere un amico frocio però significa anche tipo portare a tua moglie tranquilla e te la mandi a comprare i vestiti. Ma che lei cos'è? Mi fa schifo. Lo, lo schiavismo omosessuale. Io non voglio più parlare con lei, sto zitto. Dopo i neri, gli afroamericani. Dopo gli afroamericani che usate come schiavi, lui vuole usare come schiavi omosessuali. Vediamo che cosa. Allora, la notizia è che un prete, un vescovo, cioè un prete di Pistoia, ha deciso che gli omosessuali non possono avere la comunione, perché l'omosessualità è un disordine, ha detto che se è ostentata, purtroppo non posso avere la comunione. Lei cosa le pensa? No. Gli omosessuali possono avere la comunione? Sì, povere bestie. Ah, tutti. Ma come povere bestie? Io pensavo che lei era aperto. Quelli sono uomini come noi. Sì. Simili, però cioè, dico io facciamo battezzare i cani perché io faccio pigliare le comunioni ai froci. Ma no, ma non è, non a parte può che i cani non è vero che vengono battezzati. Come no? Ci sta la chiesa vicino a casa mia, cioè vicino a 2 chilometri da casa mia, che fa una manifestazione tipo una volta l'anno, fa venire tutti i cani fuori al cortile e ci sta il prete con ma lei dove abita questa reggia, questo castello col prete che fa? Ma che dice? E nei dintorni di Milano. Nei dintorni di Milano. Sì, vuole dire comunque, cioè i cani. No, parliamo di omosessuali. Allora, omosessuali. Ha detto omosessuale, hai visto? Lo stiamo aggiustando. Sì, ma è irrecuperabile. Allora, no, omosessuale. L'omosessuale, allora, abbiamo detto che non può avere. Va battezzato. Va battezzato perché un bambino piccolo va battezzato, ovviamente. I froci nascono, froci. Cioè, no, guarda, io... Ma adesso no, non piange adesso. Allora, da piangere. Perché parlo male della razza tua? Dai, allora, no. Allora, l'omosessuale. Sì, vabbè, poverini. Ma che poverini? Loro, non è colpa loro. Ma non è una colpa. Sono di compagnia. Ma non sono animali. Signor Mummolo, lei ama Ascania. Lei ama Ascania. Diciamo c'è stato un rapporto di interesse. Signor Mummolo, allora, sua vedi, moglie. Il problema è che non si può avere una discussione con questa persona. Diciamo che l'amore io non esiste. Non ci come credo. L'amore non esiste? Tra non un po' è pure San Valentino. Ecco, signor domani devo fare una domanda interessantissima. Lei, per San Valentino, che cosa ha organizzato con la sua bellissima moglie? Ho affittato la Torre Eiffel. Si affitta la Torre Eiffel? Probabile. Quindi lei è perché hai i soldi? No, veramente la faccio portare qui. No, come la portare qui? È perché, allora, questa Scania, la voglio Scania vedere. Non si può muovere perché purtroppo sei infortunata sulla neve 2 settimane fa. Ci dispiace. Una barotta. Allora, comunque, l'elicottero, a mettarlo prima. Non sì. Intanto ho avvisato prima, a questo punto ho detto, fate una cosa, mi portate la Torre Eiffel qua fuori. Fate una cosa, voi francesi, portatemi la Torre Eiffel un attimo. E la mettiamo lì fuori, signor al giardino. Ma quella è molto grande, la Torre Eiffel. Mica è un giocattolo. Lo so, infatti, per questo ho prenotato 2-3 elicotteri da sport. 2-3 elicotteri. È il giardino grande abbastanza? Per sì, inserire. come no. Come no? Ma no, dica una cosa. Quindi lei in fondo è romantico, ci crede al San Valentino, perché se no non organizzava. È che Ascania ci tiene a queste cose, quindi faccio sì che possano venire. Vabbè, quindi comunque c'è un fondo d'amore, capito? Sì, cioè, nel senso, visto che la moglie ci crede, anche se io non ci credo. Ma torniamo ai froci. No, come torniamo ai froci? I froci, gli omosessuali, mannaccia lei. I froci, no, gli omosessuali festeggiano il San Valentino come li festeggia lei. No, come un po' diverso. Non è vero. No, non è vero, si amano uguali. Un po' diverso. In che modo? In che modo? Lei cosa intende? No, per non, dire? Mi faccia escre, non mi faccia essere scurire. Ah, perché adesso, fino adesso è stato proprio. Vabbè, allora se lo schiattano nel culo. No, signor Mummo. Signor Mummo, basta. Però ve lo tirate proprio dalle putella. Ma basta, no, basta. No. Guarda, chiudiamola qui. Sì, che no, però. Cioè, aspetta, vediamo che dice. Sono importanti. Perché cosa? In generale. Sono importanti in generale. Cioè, comunque. Poverino. Ma lei lo sa che gli omosessuali votano? Cioè, in relazione alla sua candidatura. Appunto, sono importanti. Ma lei fino adesso li ha offesi, quelli non la voteranno. Dica qualcosa per farsi votare. Froci. Aspetta, facciamogli dire qualcosa per recuperare e farsi votare. Da, che cosa vuole dire omosessuali per votare Mummolo? Cari amici. Ecco. O amiche, come preferite che vi chiamo. Ragazzi, uomini, no. Scelga. Essere umani. Essere salve. Umani. Sono Ascanio Mummolo. Mi raccomando, se venite a votare per me, facciamo la festa del Gay Pride due volte la settimana. Ma come deve fare? Poi se volete votarmi, non lo so, vi faccio decidere gli uomini che volete, vi divertite. Ma sta parlando, che cosa sta barattando? Chi è lei? Caligola? Non lo so, fatemi delle richieste e io vedrò di eseguirle per voi, forse. Vabbè, allora, il servilismo elettorale. Amici omosessuali di Radio 2010, non votate. Scriveteci le richieste per Ascanio Mummo. Che le esaudirà tutte, se ma voi certo, lo votate. Ma certo. E gli omosessuali che non la votano? No, niente, io sono buono. Però votatemi. Ecco. È meglio. Mi sa tanto di minaccia. È una minaccia. No, non è una minaccia. Ho detto solo votatemi. È una campagna elettorale. Ho detto votatemi, Dio santo. Allora dica il suo motto che mi piace tanto. Ah, gente per noi, gente per voi, servono tutti. È bellissimo. È bellissimo, sì. Vabbè, sì. Allora chiudiamo così. Grazie per le sue opinioni. Scusiamo chiunque omosessuale ci abbia ascoltato e si sia ritenuto giustamente offeso dalle sue dichiarazioni. E la salutiamo. Diciamo che la salutiamo e va bene così. Ah, signor Ascanio, sì. Mi scusi un attimo. No, non si Tiziana, figura. La nostra ascoltatrice fedele, ha cambiato nome. Tiziana ha cambiato nome in Ascania, la nostra spettatrice, perché talmente che la ama e la ammira come persona. Va bene. Adesso il povero ragazzo dovrà chiamarlo. Carlo. Ecco, si chiama ragazzo. Carlo. Ragazzo, sì. Rogelico, cazzo di nome di merda. Chiamati Ascanio. Vabbè. Adesso ti si apriranno le porte dell'universo. Vabbè. E se ti serve ti do una mano io il ad delirio, aprire io tutte le chiavi del mondo, quelle universali. È il le chiavi del mondo, quelle universali. È il delirio totale. Cioè, l'altro io non ho parole, cioè stiamo parlando di uno che deve chiamarsi in Ascanio e l'altro si chiama in Ascania. Avremo un futuro di Ascani e Ascania all'impazzata. Vabbè. Scusate un attimo il telefono. Ma stiamo per chiudere. Pronto? Sentiamo un po' che dici. Che problema c'è? Ma vabbè, stiamo scherzando. Ma è chiude. Una torre di merda di metallo. Fatela portare. Stava la della Torre Eiffel. Stava avendo qualche problema. Giustamente. No, Ma chi se ne frega? Un paio di migliaia di euro in mano a loro. Sì. No, Sarkozy, le fondamenta, sai, Carla Bruni. Chi se ne frega? Dopo le rimettiamo una colata di cemento e tutto come prima. Una colata di cemento. A chi se ne frega? Chi se la vuole rubare quella merda? Me lo faccio fare dal mio artigiano, fatta meglio. L'artigiano, l'artigiano che fa la Torre Eiffel. Sì, Ascanio. Carmine, fallo, ok, ciao. Carmine, se no sei licenziato. Ciao, che nome di merda poi. Ciao. Ascanio. Arrivederci, Ascanio. Basta, Ascanio, salutiamoci. Arrivederci. Mi raccomando. Evviva Corona, evviva Maria Teresa di Calcutta. Maria Teresa di Calcutta. Allora, adesso partiamo subito con l'ultima. Sì. Allora, la rubrica Darwin. Allora, la rubrica Darwin Awards l'abbiamo temporaneamente sospesa. Sì. Anche perché. Vabbè, stiamo entrando nella stiamo settimana entrando calda. Nella settimana calda dell'evento dell'anno mondano della musica leggera italiana. Stiamo parlando, eccolo qua. Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo, eccolo qui. Che cosa hai da dirci tu, Sanremo? Allora, parte la rubrica di Sanremo. Allora, la prima parte della rubrica, la prima puntata riguarda la rubrica, parliamo dei duetti. Sì. Guarda che sono succulenti, no, eh. No, ma i duetti di... Senti che bella canzone. Senti, ma tra l'altro questa è un'edizione... Vecchissima. Del 96. 96. Cantata da Rudy Neri, bravissimo. Sì. Chiedo di abbassare leggermente in regia perché così diciamo bene le notizie. Allora... Le notizie sono, sì. I duetti saranno il mitico Toto Cotugno, grandioso, che ricordiamo per Voglio andare a vivere in campagna. Io sono un italiano vero. Io sono un italiano vero. E lui vuole sapere con chi canterà, con quale artista di caratura mondiale. Chi? Belen Rodriguez. Allora basta. Cosa da questa dire? Storia di Belen, basta. Allora, cantò una volta, sì, a quel programma, come si chiamava? Un programma, quello lì con degli con scherzi. Chi è? Scherzi a parte. Scherzi a parte. Belen Rodriguez che presentava il nuda. Programma. Che presentava il programma, nuda. Tutti quanti. Ma che cosa saprà fare questa Belen Rodriguez, eh? E canta. Mo, ha cantato una canzone per com'era? Un minimo di intonazione. Un minimo. Ce l'ha. Non è che... Sì. Però il problema è che con questa storia del il giorno dopo, sì, questa storia dell'aver cantato... accettabilmente, sì, in maniera accettabile, ma niente di esaltante. Roba da sotto la doccia, diciamo così. Esatto, bene, ma sotto la doccia. Belen Rodriguez sa anche cantare, è anche cantante, ma è anche cosa? Cioè, è anche cantante uno, non è vero, ha cantato l'altro. Due paroline su via, dai, e basta, poi rispetto sì. A che? Ah, poi sì, anche cosa? È nuda. Che non, è nuda, e oltre per a essere nuda, canta un pochettino. Pure. Come si chiamava quello là? Il calciatore? No, quello lì dell'Isola dei Famosi. Il che calciatore lei toccava. Era... Ah, Ascanio Rubicondi. No, Rossano Rubicondi. Cioè, è famosa per quello e perché sa intonare, ecco, una canzone. È famosa anche per il suo compagno. Sì. Il mitico Corona, allora, non perdona. Belen, che bella coppia, che bella coppia. Noi non ce l'abbiamo con te, però tu non sai fare niente. No, non sai fare niente. Cioè, sei buona, cioè, buona, diciamolo, molto bella. Dai. Però, cioè, canti normalmente, come canta mia mamma. Diciamo, cioè, che non da andare a Sanremo. Cioè, a questo punto ci vado anch'io a Sanremo, sì, a fare il duetto con Toto Cotugno. Tra l'altro, l'ho sempre sognato. Io lo so che Toto Cotugno non ha colpa in questa cosa. È che dovrà dire per una settimana intera. No, perché con canta con Belen c'è stato subito questo sentimento di. Cioè, dai. È una grande artista, siamo incontrati artisticamente. Una grande artista di chi? Dai. Secondo me non ti salutano neanche. Sono dispiaciuto. Duetto scoppia. Tanti e pieno di larità tra Povia e Marco Masini. Ah, cioè, che tristezza. Ci buttiamo giù da un balcone subito. Come l'abbiamo da tagliarsi le vene. Povero Marco Masini che finalmente è riuscito ad uscire da questa situazione. Sai, dicevano che portasse sfortuna. Io l'apprezzo, anche uno che comunque secondo me è stata vittima di anche lui, ostaggio dello Stato. Sì, però. Ma sì, dai. Cioè, una svolta a questa carriera. Ma con Povia, che tra l'altro tratta sempre quegli argomenti spigolosissimi. Allora, Povia ha parlato dei bambini che fanno di un piccione. Di un piccione che vuole avere il becco. E di uno che prima era gay e poi all'improvviso non è più ed gay. È successo l'impossibile l'anno scorso. Sì, cioè dai Povia, pure tu dai. È successo l'impossibile, Povia per cortesia. Un altro bellissimo duetto fa Fabrizio Moro, canterà con il re di Vivo. Resuscitato, sì. Jarabe De Paolo. Ma Moro è quello lì di pensa. Prima di sparare, pensa. Prima di dire, quello là che parlava sì, così. Sì. Che lo vedi solo a Sanremo, queste sì, persone. Sì. Canterà con Jarabe De Paolo. Ah, capito? Dipende. Dipende, poi anche non venire. Il redivivo l'hanno resuscitato perché era morto. Non sa sì. Che fine aveva fatto. No, vabbè, penso che abbia fatto altre cose. Insomma. Sconosciute. È tornato a Sanremo. Ma il duetto più bello sì. È quello che non vedo l'ora di guardare, tra l'altro vediamo di vederlo insieme Sanremo, allora, così sì, potremo parlarne. Di organizzare qualcosa con la radio. È un trio, non è un duetto. Chi sono? Allora, il cantante è Pupo. Mamma il mitico Pupo. Mamma mia. Il bigamo. Oh, l'unico Pupo, bigamo. Pupo ha scritto Firenze Santa Maria Novella, secondo me è un capolavoro. Firenze Santa Maria Novella. Bellissimo. Vabbè, anche Gelato al Cioccolato, che è un pezzo bellissimo. E comunque abbiamo Pupo insieme a... Ascoltami. Che ridi? Abbiamo Pupo insieme a Emanuele Filiberto, famoso per il suo dote canore. Sì. Il padre famoso invece per il suo dote canore. Sì, canore, diciamo puttaniere. E non so cosa c'entri, soprattutto io direi perché, il CT della nazionale Marcello Lippi. Che cosa c'entra queste... Hanno voluto giocare sul sentirsi italiani. Sì, perché c'era una canzone che parla dell'Italia. Marcello Lippi ha vinto un mondiale, ma è una delle persone più insopportabili. È noiosissimo. Del pianeta. E tra l'altro è fuori, ben lavorato, dobbiamo vincere il secondo mondiale. Pupo, Pupo, si è giocato i miliardi, le case, alle carte. È un classico italiano. E tra l'altro è bigamo, ricordiamo. Emanuele Filiberto ha chiesto, mi sembra... 40 milioni di euro di risarcimento all'Italia per non aver fatto un cazzo. Niente, per essere stato un re. Non è stato un re, lui si è svegliato un principe per favore, perché dai. Il re, che sarebbe il puttaniere, che sono sgamato, che andava a zoccole qua in Italia, e hanno chiesto insieme alla famigliola: ma chiediamo un risarcimento all'Italia perché non siamo più monarchi. No, no. Così. No. Tra l'altro, Emanuele Filiberto, cioè, per me è uno dei personaggi più brutti mai visto in televisione. Un bravo ballerino. Ricordiamo, l'abbiamo visto ballando sotto le stelle. Lui che tiene tipo blasonato tre palle, ce l'ha fatto venire quattro. È inguardabile, lui che ballava, improponibile. Tra l'altro, ballando sotto le stelle, un altro programmone palinsesto televisivo eccezionale, la Rai, che noi paghiamo. Io ho paura di questa edizione. Concludiamo tutto con... Tra l'altro, un altro scoop riguarda l'edizione. Allora, la presentatrice è Antonella Clerici. Mamma mia, Antonella Clerici. Diciamo che la bovina di Rai 1. La bovina di Rai 1, che presenta tutti i programmi, tipo La Prova del Cuoco. Comunque una bella in forma, diciamo così. Sì. Che è successo? Allora, lei, essendo bella in forma, diciamo sia davanti che ha la forma tipo di un'anfora, diciamo così. Sì. Aveva intenzione di dimagrire un po'. Sì. Il problema è che non è stato un po', talmente a cinghia stretta che è stata, che un giorno Antonella Clerici è svenuta. Mamma mia. Perché si cibava soltanto di quelli, di quei bibitoni proteici. Perché Antonella, lei vuole fare bella figura. Perché Sanremo, sai, lei ma viene dalla prova del cuoco. Tutti ti amiamo così, abbondante. Bella sciacciona. Sei la nostra mamma. Bella sciacciona. Ha un'immagine materna, un po' dai. Come quelle divinità etrusche. Dai, ma perché? Lì, bella sciacciona, bella piena. Anche una bella donna, comunque, con Barbara D'Urso e la Gemini. Certo, certo. Se vogliono venire, ad esempio, certo. Prendiamo. Allora, aggiorniamo la lista. Barbara D'Urso. Bella la donna. Gemini, la Gemini. Francesca, l'abbiamo invitata. Cipriani. La Daddario. La Daddario che si torna a fare la escort, facciamo una piccola colletta qua. Esatto. Ce la possiamo fare, vendiamo roba. Ed ora, anche la Clerici. Anche la Clerici, se vuole, donna d'esperienza, tra l'altro, bella sciacciona, diciamo sì, la bovina di Re 1. Che tra l'altro tra un po' presenterà Sanremo. Non vedo l'ora di gustarmelo. Sì, assolutamente. Ho le papille gustative in fremito. Cioè non vedo l'ora di vedere Pupo che canta Emanuele Filiberto e Marcello Lippi. Marcello Lippi in tuta. Te ne immagini, tutti questi eleganti, lui in tuta della nazionale questo col pallone. Stivale. Questo stivale veramente non bastretto. Siamo capaci di organizzare niente. Poi manco Sanremo. Ho visto il Super Bowl, che è l'evento più seguito bellissimo in America. Oh, ma uno spettacolo bellissimo. Sono organizzato. Aquile che volavano, l'inno americano, caccia che sorvolavano lo bellissimo stadio. Cioè, mamma se guardare il Super Bowl vi fa capire come noi veramente siamo indietro. Cioè, è vero che stiamo parlando di una manifestazione sportiva. Sì, però. Però anche noi abbiamo le nostre manifestazioni sportive e non abbiamo niente a che fare. L'inno nazionale prima, che è stato cantato sempre da una celebrità. L'aquila che porta la bandiera americana, no, tutti sentono americani. Si ferma l'America per il Super Bowl. Sì, sì, tra l'altro una tecnologia in mezzo a quel campo, tutti gli allenatori con delle cuffie di una notosissima marca. L'America è sempre l'America. E tra l'altro che, allora, nei nostri intervalli i giocatori vanno a prendersi il tè caldo e noi andiamo a comprare il caffè Borghetti, il gelato che te lo portano sullo stadio. Che è successo durante il Super Bowl, nella pausa del primo e secondo tempo? Chi ha suonato, sono te? Yu. Hanno suonato Yu dal vivo. No, cioè, infatti, ma che infatti. Hanno proprio una... sono avanti riguardo a questa cosa. Dato molto bello, l'ho visto pure che io. Che peccato, Pupo, però. Che cosa? Che non, no, che non può cantare al durante il Super Bowl. Ti immagini al Super Bowl lui che canta gelato al cioccolato? Oh, Firenze Santa Maria Novella. Oh, Firenze Santa Maria Novella è un capolavoro. Sì, vabbè, facciamo la finita. Siamo andati dico sul serio. Vabbè, lui dice sul serio. Comunque il Super Bowl è molto bello. Io non capisco molto di football, però. No, vabbè, un minimo, dai. Però va visto, perché comunque loro hanno tutto un sistema, i replay, è tutto bellissimo. Anche se fosse uno sport noioso, ti come fai, il baseball. Ti fai un'idea di sport funzionante. Come funziona lo sport? Perché, sì. Perché gli americani è sempre tutto show per loro. Sì. Quindi anche una semplice cosa è uno show. E infatti così è stato. Niente, la trasmissione finisce qui. Siamo stati rapidi, concisi e sempre molto simpatici. Abbiamo un messaggio dalla regia. Perfetto, dobbiamo fare dei saluti particolari. Sì, assolutamente. Allora, cominciamo subito con questo saluto particolare. Perché fa anche, è un amico, fa parte dello salutiamo staff. Salutiamo Luigi Palumbo. Un momento che voglio la sigla dei saluti. Per favore, certo. Regia. Eccola. Allora, salutiamo Luigi Palumbo, nostro collaboratore. Ciao, Luigi. Che è ideatore del programma L'Artiglio. Sì, Fosco L'Artiglio. Per un paio di settimane non è andato in onda. Lo aspettiamo, sta facendo un interventino di salute. Se non voleva farlo sapere. No, vabbè, non diciamo niente di in più. Vabbè, no, un interventino normalissimo, non è che sta cambiando sesso. Niente, diciamo, niente, un interventino niente, normalissimo. Niente salutiamolo, ciao Luigi. Lo salutiamo, un bacio. Ciao Luigi. Ci vediamo. Ci vediamo. Dai, andiamo avanti. Chi salutiamo più? Vabbè, salutiamo sì, i soliti del blog. Allora, voglio innanzitutto salutare innanzitutto Eleonora, che è la nostra speaker, che ci saluta sul forum lamentandosi che l'altra volta non abbia fatto parlare lei, e stavolta l'abbiamo subito ringraziata. Sì. Salutiamo Fernanda Teta, la nostra grafica, che ci fa anche complimenti, quindi grazie, ciao Fernanda. Certo. Salutiamo ormai la Tiziana. Nostra Tiziana, la nostra Beniamina. Tiziana è anche il ragazzo che salutare, che io conosco bene, Carlo, salutiamo sì. Entrambi. Tiziana, anzi scusami, non si chiama più Tiziana, si chiama Ascania. Salutiamo Ascania, poi chi salutiamo più? Nessuno, abbiamo sì, finito. Sì, sì, no, ah no, ancora? Un altro paio di commenti. Ah, un altro paio di commenti che stiamo vedendo adesso in diretta. Silvia Mondier, che è un'altra cara amica, ci scrive bravissimi, mega galattici, fighissimi riguardo all'intervista con i Revenants. Io sono fighissimo, anche e poi mega c'è galattico. Feppe. Chi è Feppe? Feppe ha scritto il freddo addosso. Tipica espressione napoletana per dire emozionante. Tipica espressione alla Revenants. Direi. Alla Revenants, infatti secondo me c'è puzza di Revenants là in mezzo. Poi salutiamo Teresa De Vita, che ci ha appena contattato e ci ha scritto soltanto ciao. E noi abbiamo risposto ciao. Con ancora più. Sì, perché siamo un po' fatti così. Perché insomma. La comunicazione è fatta così. Salutiamo Antonella, che ha allietato la nostra registrazione qui direttamente in studio. Ah, è vero, abbiamo Antonella Lolica Pulli. Che qui cerca come al solito un uomo, signore. Ah, smetti, guarda, è dieta da rossa paonaccia. Cerca un uomo. Con Antonella le mani in tasca, bionda, è timida. Alta. Prosperosa. Ma la smetti, guarda là, non esce più di qua. Sto cercando di vendere un prodotto qua, non so se vabbè, ci siamo. Ma non è un che ne è so. È una cara amica, non è che sta al telemarket. Allora, mi che sta devi a cuore, vendere. Mi sta a cuore la sua vicenda sentimentale. Va bene, vabbè, salutiamo Antonella, che è qui ha assistito. Potete a questa tragedia. Potete contattarla al 338. Dai, non si dà il numero di telefono. Sto scherzando. Che però se mi contattate in privato possiamo gestire un piccolo traffico che di Antonella. Pappone. No, il pappone, aiuto Antonella a trovare un uomo. È però in privato, hai detto. In privato, perché non si può dare un numero di telefono. Sei un pappone, sei un pappone. Chi salutiamo più, qualcun altro? E se sei interessato ancora? Antonella, però hai un amico, un migliore amico che non vuoi lasciare da solo, Antonella ha un sacco di amiche. Ma pure. Cioè, adesso lei non verrà mai più qua in trasmissione. Ma ci vuole bene, stiamo scherzando. Guarda, come no, adesso ci arrivano messaggi di boiosi, malati, luridi. Stiamo scherzando. Sì, sì, domani chiamerà uno che si chiama Lungo 33. Cerca Antonella. Stiamo scherzando sul... E lei gioisce, giustamente. Che maliziosa che sei, Antonella. E poi chiamami invece, domani chiamerà invece Piccolo 12. Probabilmente. Va bene lo stesso, eh. Va bene lo stesso, non facciamo... Vabbè, dai. Danno a nessuno. Niente, salutiamo con il nostro Siate Curiosi. Saluti siate da curiosi. Riccardo Cremona. Siate curiosi. E dai, saluta Alessio Strazzullo. Radio 2010, Misa Stretto lo Stivale. Ciao. Buonasera. Commenti.